Mauro, ho una proposta. Io farei che l'intervista di questa settimana la fai tu. Ti spiego il perché. Allora, io e te abbiamo dei gusti un po' diversi, no? A livello musicale, delle carriere di ascoltatori musicali un po' diverse. E io di questo gruppo sono fissata su una canzone che fa Megan ID contro Titan Track. Esatto. Ecco, quindi in realtà se io gli faccio un'intervista, gli chiedo sicuramente delle cose un po' più datate. So che invece sei più ferrato tu. Beh, sono ferrato anche perché il 6 marzo 2020, quindi una quindicina di giorni fa, è uscito il settimo album di questa band genovese che si chiama appunto Meganoidi, che tutti ricorderete sicuramente per Supereroi contro la Municipale, Supereroi, per esempio, che tra l'altro è anche un po' attuale, si può dire, sì. Ma va bene. O Zeta Reticoli, per esempio, che è una delle canzoni indie, possiamo definire, più conosciute proprio a livello italiano da tutti, da un sacco di gente, no? Ecco, i Meganoidi hanno fatto ben 7 album. Il settimo, uscito pochi giorni fa, si intitola Mescla. Beh, in realtà dobbiamo dire una cosa: quando abbiamo fatto il disco della settimana composto da 4 dischi più uno, avevamo inserito anche Mescla, avevamo sentito un pezzo estratto da quest'album, quindi dai, anch'io in realtà l'ho ascoltato. Anche perché è un album molto bello, perché di tutte le influenze che hanno fatto parte dei Meganoidi, quindi lo ska iniziale, il post rock progressive successivo, c'è un po' una mescla appunto, no? Tutto si unisce in questo nuovo album. Pensa a te, l'avranno scelto a caso questo titolo. Probabile, tornando un po' alle origini, ma aggiungendo sempre qualcosa di nuovo. Ci sono pezzi più ballabili, pezzi magari più introspettivi e profondi, insomma, comunque è un album molto bello. Direi che a sto punto però ne stiamo continuando a parlare noi, ma la cosa migliore sarebbe farne parlare loro. Allora, facciamo parlare Luca Guercio, che è il trombettista, chitarrista, nonché uno dei fondatori storici dei Meganoidi, appunto, della band, che abbiamo intervistato un paio di giorni fa al telefono, ovviamente al telefono perché gli incontri in questo momento non si possono fare, e quindi vi lasciamo a un pezzo tratto da Mescla e all'intervista ai Meganoidi. Condizione è la tua identità. Condizione per chi non ce l'ha. Condizione succede, succederà. Andrà bene l'uno o l'altra. Condizione, la voce del padrone. Condizione, la soluzione qua. Condizione è razionalità. Andrà bene l'uno o l'altra. Fluida della mente è attratta dalla luna e non ragiona più. Luce, tu sei l'unica luce per me che consegna i lati oscuri, colori chiassosi e vivaci. Non vedo l'ora che l'alba arrivi a liberarci. Direzione, ignora tutte le star. Direzione, funziona ad ogni età. Direzione, le nostre abilità. Andrà bene l'uno o l'altra. Direzione, concentra le affinità. Direzione, lontana ma brilla già. Direzione, motori avanti tutta. Andrà bene l'uno o l'altra. Quando viene buio pare tutto più difficile. La componente più fluida della mente è attratta dalla luna e non ragiona più. Luce, tu sei l'unica luce per me che consegna i lati oscuri, colori chiassosi e vivaci. Non vedo l'ora che l'alba arrivi a liberarci. Thank you. faci. Non vedo l'ora che l'alba arrivi a liberarci. Siamo al telefono con Luca Guercio, trombettista chitarrista dei Meganoidi. Grazie mille Luca per essere qui con noi intanto. Grazie mille a voi. Allora, voi avete fatto uscire il 6 marzo il settimo album, nuovo album che si intitola Mescla, ed è un album che ha anche dei temi importanti. Allora io volevo chiederti un po' qual è stata la spinta che vi ha portato a scrivere quest'album e a parlare di determinati argomenti. Guarda, la spinta che ci è arrivata per comporre questo disco è stato il risultato comunque del confronto con l'album precedente con il pubblico. L'album Days Experience, che è uscito nel 2018, ci ha portato avanti e indietro per l'Italia per oltre una sessantina di concerti tra il 2018 e il 2019. Forse più che in altri periodi il pubblico ci ha chiesto: dai, mi raccomando, fate uscire qualcosa quando esce un nuovo disco. Erano molto entusiasti e ci ha aggazzato particolarmente questa cosa. E tra il marzo e l'agosto del 2019 io e Davide, il cantante dei Megaloidi, ci siamo messi lì e abbiamo scritto un disco intero. I temi che abbiamo trattato, tra l'altro i testi li abbiamo scritti la settimana di Ferragosto. Non si va mai in vacanza. Sì, l'abbiamo scritto proprio nella pausa. Quindi il fatto di affrontare alcuni temi, come possono essere la condivisione, il miscuglio con le altre culture, le persone in generale, il fatto di maturare una certa consapevolezza che accogliere ciò che non si conosce ti permette di diventare una persona migliore. Lo abbiamo trattato perché secondo me siamo in una fase, forse dell'età anche, una fase nostra di maturità che ci ha fatto rendere conto che era importante parlarne e ne avevamo bisogno di parlarne. Infatti il titolo del disco, Mescla, che è una parola portoghese che significa miscuglio, rappresenta forse in una parola lo spirito Meganoidi, che è quello della contaminazione, dell'apertura al nuovo. Al nuovo e allo sperimentale. Infatti, tra l'altro, voi avete iniziato con lo ska punk, quasi ska call, poi, perché se penso al secondo album era quasi hardcore, diciamo. E quindi c'è stata una grande evoluzione musicale, oltre che nei testi, la maturità nei testi, anche dal punto di vista musicale. Perché c'è stato questo grande cambiamento e a che punto del vostro percorso musicale vi ritenete? Guarda, arrivare non si arriva mai da nessuna parte, fino a un secondo prima di tirare le cuoia, cioè già è tempo di crescere. Noi abbiamo sempre cambiato, forse perché abbiamo interpretato a modo nostro l'autoproduzione, che è quella di l'autoproduzione per noi è una sorta di artigianato discografico, quindi perché no, una sorta di Formula 1 della musica, in cui forse è il caso di sperimentare un po' di più e evitare di fossilizzarsi su quello che sono stati i successi che ti ha permesso di essere conosciuto, quindi cercare di evolversi sempre. Non sto dicendo che sia sbagliato replicare ciò che si è fatto, però noi non saremmo stati in grado di farlo, proprio per una questione di indole. Quelli che riescono in qualche modo a clonare sempre quello che hanno fatto nel disco precedente è una qualità. Noi non siamo stati capaci, non ne saremo capaci, perché non ci interessa neanche. Il fatto di sperimentare, di ogni volta mettersi in gioco, è lo spirito che tiene in vita da 22 anni Meganoidi, che è quello di guardarsi negli occhi e dire: che facciamo adesso? Ogni volta è una scommessa, però è... ormai si è creato questo bel gioco con chi ci segue, con il nostro pubblico, che è quello che ci dicono: ma adesso chissà cosa faranno. Sempre qualcosa di nuovo. Esatto, si è creato questo legame per cui a noi non piace annoiarsi e al nostro pubblico non piace annoiarsi, quindi sono contenti della novità. Quanto mi piace l'estate, ora l'estate dov'è? Siamo ancora in inverno, poco d'estate c'è, mi metto in maniche corte, vado alla spiaggia lo stesso, se vuoi venire con me, allora seguimi adesso, la strada è giusta, quello ai lati non mi va, la vita è dura, la mia mescla è morbida, la troppo vento. Il giorno scorre comunque, non cambia quello che sento. Rimando in maniche corte, il viaggio è sempre un successo. Se vuoi restare con me, puoi anche dirmelo adesso. La strada è giusta, quello ai lati non mi va. La vita è dura, la mia mescla è morbida. La memoria non è così nitida. La vita è dura, la mia mescla è morbida. L'ultimo album, non so, cioè è molto anche variegato, diciamo, che si parte un po' con del rock un po' più, come si può dire, in quattro quarti, poi cede al funk, da qualche parte c'è ancora un po' di ska, insomma c'è proprio un po' tutti, tanti generi mescolati insieme. Non ci preoccupiamo tanto di dover fare dei vestitini ai pezzi, ci sono alcuni pezzi che funzionano e bisogna cercare di valorizzarli al meglio per quello che sono. Sono un po' come tanti piccoli pargoletti che vanno accettati per quello che sono. Un pezzo è comunque una parte di te. In questo disco è sviscerata l'anima più rock dei Megaroni e quella più funk, che non era stata ancora sviscerata nei dischi precedenti. Però noi abbiamo sempre avuto questo aspetto pop, ma anche, perché no, un po' dance nell'anima dei Megaroni. Infatti il singolo Condizione, non a caso ci sono due scene che sono dette in sequenza con dei balletti, che è una cosa che ci ha divertito. Infatti è interessante, i ballerini anche sui pattini a rotelle ci sono nel video. Ballerine bravissime, che sono un quartetto di ragazze meravigliose, bravissime, che hanno partecipato. All'inizio ci sono anche i biker che ci saltano sulla testa, fanno 360 gradi sopra la testa di Giacco del bassista. No, è un video molto particolare, perché poi alla fine sono 7 anni in sequenza, quindi buono la prima, incollati tutto da delle transizioni. Ma, a proposito di autoproduzione, no? Che voi siete sempre stati un po' contro le grandi major, la grande distribuzione, anche con il secondo album, se non sbaglio, avete messo prezzo imposto €13, non nessun aumento. E secondo te, dal punto di vista della carriera, della, diciamo, distribuzione anche dei vostri lavori, quanto ha influito essere autoprodotti, autodeterminati e non lasciarsi, diciamo, influenzare da questa grande distribuzione? Ma noi non abbiamo siamo stati molto corteggiati dalle major in passato, e però non abbiamo mai ceduto, non perché fossimo contrari, perché secondo me non eravamo portati per quel genere di percorso. Cioè, non è che io sia contrario allo smoking, è che mi sta male, non so come dirti. la produzione di quelle, le major in quel periodo lì lavoravano molto sui dischi, sui singoli, in un modo che per noi non era congeniale. Noi infatti ci siamo presi ogni tanto delle pause anche per scrivere. Siamo sempre stati più una macchina live come band. Dove ha influito sicuramente il fatto che ha influito positivamente dal punto di vista artistico, il fatto dell'autoproduzione, perché ci ha permesso di prenderci i nostri tempi per fare le cose come volevamo noi. Da un punto di vista di diffusione, sicuramente con una major avremmo fatto molti più numeri, quello sicuramente, però bisogna vedere, magari saremmo morti artisticamente prima, perché con la testa che abbiamo non saremmo riusciti a reggere quel genere di percorso. Allora, cambiando un po' argomento, voi adesso per ovvie ragioni, come tutti quanti, non siete in tour, i concerti sono fermi e ognuno a casa sua. State, diciamo, come band, lavorando a qualcosa, che so, concerti in streaming o anche altri lavori? State portando avanti delle idee in qualche modo? Guarda, noi abbiamo fatto un paio di dirette e ne faremo delle altre sul nostro canale Instagram per chiacchierare con il nostro pubblico. Concerti in streaming, essendo tutti separati a Genova, non vado più vicino, ahimè, non essendo considerata una l'arte è un certo motivo per vedersi, per l'autocertificazione, non possiamo vederci per fare. Perché farlo a distanza c'è proprio un problema di lag, ci sono dei problemi di ritardo, quindi non riesci a essere asincro. Quindi sicuramente volevamo studiare un modo, che magari era quello di registrare una parte e poi far sovraincidere un altro video dopo, e quindi poi renderlo diciamo, metterlo asincro dopo. Per il momento stiamo sfruttando un pochettino alcune dirette sul nostro canale Instagram, dove cerchiamo anche di invitare le persone in questa fase ad aiutare comunque anche le attività locali, quelli che fanno consegne a domicilio, e che in questo periodo qua, un po' come la nostra categoria, è stata fortemente penalizzata. Speriamo di uscirne al più presto. Tra l'altro, avevo sentito una frase, ma non mi ricordo dove, dopo la guerra la gente aveva voglia di ballare, no? E noi alla fine di tutto questo penso avremo voglia di ballare anche sui vostri pezzi, quindi speriamo. Ti faccio l'ultima domanda. Per chiudere l'intervista, quindi adesso mettiamo l'ultimo pezzo, che pezzo mettiamo? C'è un pezzo a cui siete magari particolarmente legati, che ha un significato particolare per voi dentro quest'ultimo album? Guarda, io metterei un pezzo estremamente solare, che è Persone Nuove, perché secondo me da questo periodo qua usciremo tutti un po' di più persone nuove, saremo delle persone in grado forse di accogliere di più le diversità e a avere una tolleranza che secondo me nell'ultimo periodo avevamo un po' perso. Quindi sì, sicuramente persone nuove. Perfetto, allora Luca, io ti ringrazio infinitamente, spero davvero che prima o poi riusciremo a vedervi dal vivo, e ti ringrazio infinitamente per la disponibilità. Grazie mille a te, a tutti voi. Viaggiare con le persone di cui non conosco il nome, persone nuove, è andata come è andata, non so se fosse un viaggio di ritorno solo andata, resisterò comunque, vada sempre più vicino alle parole giuste. Viaggiare con le